fuggidaccia, dammi le zarigacci. C'era bella, già scaldava, però cazzo faceva un fiago e per dire fuori non ne buttava mio babbo, perché sapeva un imbuto grande, l'aveva comprata al consulto, enorme, e dunque la bugnata era piano e all'esterno non ne c'era nulla. Cazzo, ma per un fiasco, si era brillato, pareva come se quando travagliavo all'agio per la tessura, sempre fiasco di benzina di cazzo e l'altro, papi. Sì, sì, è così. Già me lo ricordo. E quando ce l'ha detto contrario, può accarizzare. Sì, per carità. A Caglia è Caglia, ma la zucchetta è Caglia. Lì portavo la tessura io i biduni, no? Da 20 litri, proprio kerosene e kerosene. Io prendevo lì, quando lavoravo lì, e c'avevo lo sconto, dunque, praticamente, gli avevo quasi a pagare poco. Dunque era sempre accesa la mattina e la sera, ma passi algo, cazzo. Però quando vuoi la Carlina in via di Sicilia, quando c'è la Carlina, vanno tutti. No, questo lì già ce l'ha sempre, adesso ce l'ha. Sì, è Carlini che è andato via la via di Sicilia. Carlini mi fa anche quella settentrionale via di Sicilia. Già lo so, già l'ho conosciuto, mi voleva andare a travagliare a questo, ma non vedo come è andata che pagava poco. In più di una fazia. Poi era l'occhio, tira di adrecciti, ci ha lavorato un amico mio che non l'ho più visto, Gigi Serri, autista, e me lo dizia, Gigi, ho visto come sei non ha dato una, no, non l'ho più visto, Dobbiamo viaggiare a Cattaduasi. È strano che sia entrato con Trimpeto, sì, ma adesso lo doveva assumere Trimpeto. Allora, io mi ricordo che un amico che era a 70 di Olivetto, e un anno è uscito uno di acido. Acido, allora ha preferito portare a Carlini. Si è fatto fare la fattura come era quello del Stato di Gesù, ma quello l'ha raffinato. Ah no, da noi lo zucchipremo, mi ci stanno aggiubato, cazzo, oro è un bijou. Cappa, Antonio Grobbe, avanti. E ci siamo io e Graziano, e Luca che era l'ascolto, non so se vuole entrare, Luca. Allora, a completo siamo adesso, Sono Luigi Mancacqua, adesso siamo proprio a completo. Allora, andiamo qua. Questa già, prima era una cavolata, sono una cavolata ancora di più con Luigi Antonio. Adesso mi sa che riprendete voi, siamo in cavolata ancora di più, è un casino. Caraga, però ti lascio passare vicino a casa tua, ma è troppo presto, non faccio una sorale, magari è ancora a letto. Sei provato male, domani vengo io. Se tu mi dai un'ora, guarda che sto a casa tua, ma vicino al morto io. Ti so, sono il campanello, te la metto l'ascensore e via, non c'è problema. Ma se tu mi dici, mando un messaggio, mi dici lui, guarda sotto casa, e arrivo subito. Sto mangiando una caramella tu. No. C'ho fame, mangerò, non so, vediamo cosa mangiare, vediamo. Via, vabbè. Ma ti stavo dicendo, lui, ma io dalle 2:10 sono a casa, non c'è problema, poi devo andare qui in piscina, quindi se vieni presto trovo, perché poi devo andare in piscina a portare Marco. Ti ho detto, quando arrivi, sono domani sera, non c'è problema. E la sto dicendo, alle 2:10 io sono a casa, fatti tornare lì e te lo ce l'ho in macchina. Ragazzi, io vi saluto, me ne vado dentro al calduccio, mi sdraio nella poltrona già. Buon proseguimento, circolare, ciao Luca, ciao Grosse e anche chi è in ascolto. Alla prossima! Ciao, grazie, stanno bene, dai, buona continuazione in serata. Ciao, alla prossima. Ciao. No, basta, no. fastidio. Sempre la stessa incartina. Ma la licorizia? No. Stavamata o quella? A me mi piacciono quelle morbidose della licorizia, troppo buone. Oh, poi ne mangiate troppe. Ma quella ripiene? No, non ripiene. Tutta licorizia. Tutto di quelizia, sono morbidose, sono morbide, come ti posso dire, sono rotonde, morbide, durissime, a me piace molto di quelizia qui, non so a te se piace. Sì, già mi piace, solo che mangiarne troppo fa male, la pressione. Sì, dicono così che fa salire la pressione. Una busta quando me la compro. No, non sto scherzando, mi temo, quando me la compro quella requisita me la mangio tutte. Me la mangio tutte, sono la mia cubini del mondo. C'è senza zucchero. Lo so, dicono tante cose, ma non facciamo più nulla, fumare non si può fumare, non si può mangiare, non si può mangiare aspartame, non si può, io che sono diabetico, secondo te che cosa devo fare? Se devo prendere il latte o il caffè, come me lo zucchero? Poi il fruttosio è sempre uno zucchero, e fa praticamente ti fa salire la glicemia come lo zucchero, non proprio come lo zucchero perché il fruttosio viene assorbito piano piano, invece lo zucchero proprio non ha vuoto, ecco la differenza. E già lo so, noi in Sardegna tra diabete e anemia mediterranea mettiamo il record. Vabbè, tu cosa ne sapevi, Anto? Non è che lo sapevi. Ah, ti hai fatto un atto di cortesia, solo che magari questa bambina lo desiderava. Voleva essere come gli altri, per gli altri bambini che la mangiavano. Ma io invece mi sono fatto una bella mangiata, Anto. Sono andato in quel ristorante che hanno aperto nuovo per Danida, dove si girava a Zangano. Capito qua, e sono cinesi, però mangiare non è cinese, mangiare è italiano, la roba da mangiare è tutta roba italiana, cazzo ti crepano di roba da mangiare, anche il pesce crudo tu lo porti col piatto, ci sono anche gli astici, lo porti col piatto e te lo cucinano, e sai quanto ci è venuto a testa, 18 euro, ma ci siamo crepati, io là, non ce la facevo più, mi sono mangiato calamari che sono buonissimi, sono morbidi, ma sono cigomosi, veramente buoni. Ho mangiato calamari e poi ho mangiato della carne arrosto. E poi ho mangiato tutto il gelato. Poi non ho mangiato altro, invece c'è gente che si fa 3-4 giri, che io non so dove si va bene questa roba. E non me lo ricordo, con la inizia, vabbè, comunque a fianco dove c'è la venga, non c'è da sbagliare, a fianco c'è la scritta grande grande. Poi un'altra cosa, allora di pranzo 9,80 mi pare, fai il pranzo quasi come la cena, mangi quasi di tutto, 9,80, dice che hanno fatto 400 coperte all'ora di pranzo l'altro giorno, venerdì mi pare, 400 coperte. Comunque si mangia bene. La roba c'è tutto per semicoli scettici, ci sono gli astici, ci sono i pesci, il salmone, le spigolette piccole, non di quelle grandi, quelle spigole piccole, le metti nel piatto e loro te le cucinano, non poi le servono a tavola, te le cucinano in presenza proprio. Comunque non si serve, santo, ne puoi prendere quanto mi voglio, roba pari sempre lo stesso tanto. Diceva, tra l'altro mi sta facendo la beffa, mi sta facendo la beffa, è andato con un po' di chips, me ne prendi tutti, assurdo, non mi chiudo un colore, non mi chiudo niente, mamma mia. Se ti ha appaccanito quel gioco, passa lo bendigo io, allora tu, passando sul 10, I'm attimino, un attimino. Allora, Gianni, da parte mia sei centratissimo, Claudio, sono tramite filtro, No, ma ragazzi, come fate a dire che Gianni è centratissimo se sta trasmettendo Lima Santiago Bravo? Cioè, no, non mi comprendo, Gianni, siamo in Unifor, Sierra Bravo, USB, non LSB, tu stai trasmettendo in LSB, USB, Gianni, USB. Parlate. Oh, vieni avanti adesso, adesso sei in un SB, vieni avanti, non toccare niente, ti ho sentito fortissimo. Aspetta. Cosa? Aspetta, no, ma voglio sentire a Gianni, Unifor si è parlato Gianni, eri nell'SB, per quello non riuscivo a centrarti. USB te ne mando benissimo, stacca il processore e basta, e non toccare, non fare nessuna regolazione, perché quella radio non ha bisogno di fare nessuna regolazione, ok? Ci sei? Gianni? Ora casino devi andare, USB, USB, avanti Giulio. Gianni, vedi un attimino di centrarmi. Siamo in Unifor, Santiago Bravo. No, non ce la fa, non ce la fa. Niente. Gianni, c'è B cattivo, la B. Sentir bene. Sì, così è perfetto, guarda, sta andando via col segnale. così, capito? Questo è il mio parere, poi non lo so. Claudio. Capra. Ok, logicamente lì è questione, diciamo, di spostamento di WFO, perché c'è stato un passaggio tra me e Gianni, era centratissimo, capito? E quando io mettevo lì era centrato normale. No, già, ma centrato su sintonia continua è quella. Però se tu ti sfondavi a gran pena, e se non segui a te, allora è diverso, capito? Claudio, guarda per la radio. Segnale, ma anche il radio e quello riprende. Guarda qualcosa che non si è spostato, qualcosa lì. Usa il USG. La portante probabilmente non faceva bene contatto. Schiaccia bene, Claudio, probabilmente quello, perché se andava a zero il segnale mancava la radio. Sì, in effetti è così. Gianni, noi eravamo tutti ben sintonizzati, anch'io in un primo momento ho preso un altro baracchio perché ho voluto curiosare per vedere se quello sintonizzava perfettamente. Ci riuscivo, però loro a me mi sentivano male, allora ho cambiato baracchio, e proprio al primo tentativo ci sono arrivato e non ho più toccato. Però sappi che io a te ti ho sentito almeno tre volte, chiaro, però mi sei sparito subito d'incanto proprio, Gianni. Sicché non credo, è una questione di regolazione, senz'altro. Non credo che ci sia difetto, o perlomeno stando a quelle piccole volte che ti ho sentito, capito, Gianni? Non ce l'hai di difetto, non ce l'hai, ecco, sempre è perfetto. Lo sai cos'è? Cioè, tu gridi troppo, capo, in banda laterale non bisogna metterlo così alto, non si comprende niente, quando tu parlavi giù, non se ne capiva lui quello che dicevano gli altri, quindi non si va a capire un cavolo. Uno mi diceva USB, non si capiva se era USB o USB. Alla fine, cioè, prendi la pazzetta perché non riesci più a capirci un cavolo. No, allora, già, ti spiego. Tu non riuscivi a capire a Giulio perché tu eri spostato in LSB e Giulio ti stava trasmettendo in USB e tutti e quattro te l'abbiamo detto, passa in USB. Hai capito? Perché io Giulio lo stavo gridando, io lo ascoltavo benissimo, Claudio Ilem e Sandro lo stesso. E tu magari che stavi ricevendo in LSB, invece noi eravamo in USB, hai capito? E vabbè, va comunque. Non si è successo niente, dai. Avanti, Sandro. Deve essere sì, KK. Ok, no, è che c'ho questo M500 che sicuramente vuole pulito il coso, il VFC. C'è anche Antonio Grotti, avanti Antonio, buonasera. Già, non è successo niente, però sicuramente con il VFO non è ricentrato su di noi, è ricentrato solo su di Sandro. Avanti Grotte. Va bene, avanti Gianni, riprende e fai girare. Ma io Antonio Grotte lo sento, ma proprio quasi zero, ma dov'è? È montagna, sta rientrando dalla montagna Antonio, se lo sentite perché montagna è qua, io essendo in montagna lo sento bene, è montagna, dove sei Antonio? Segnale cosa fa, non si guadagna ma si gaga. Sarà per il radio che va, Gesù, non si fa la vergogna tra 27 luci. Non per fare la vergogna tra 27 luci. c'è il perfettino della frequenza, se scende, no, non riesco manco a tirarlo fuori. Avanti Giulio, non so se tu riesci a tirarlo fuori. Sì, basso basso già riesco a capire quello che dice. Ciao Antonio Grode, mettiti a piombo perché ti sento bassissimo, molto ma molto basso, più basso di me, che sono appena alto 1,65 m, una cosa del genere. Dunque, vedi un po' tu, mettiti tacchi alti. No, accetto, provaci. No, qua sta arrivando benissimo, dai. Qua è oltre 9 e la radio è un po' più bassa del solito, ma comunque già sta arrivando bene, non ci sono problemi. Ok, avanti Gianni, aspira un po', che è staccata, eh. Ma la sto passando io, la stavano passando. Sì, adesso l'ha passata, qui nelle altre camere sta passando ancora. Oh Gianni, vuoi rifarla la prova in USB, adesso che siamo con la M, in USB, vuoi riprovare? Ma io? Dai, ripassiamo in USB. Ciao amore, buonasera, ben ascoltato. forse hai guidato il radio anche, anche il segnale, avanti Claude. Ho tolto la macchina dal garage, guardate se mi sentite meglio. Sì, io ti sento molto meglio adesso, eh. Il segnale non è alto, comunque ti sento molto ma molto meglio. Avanti qua. Chi è che mi ha chiamato? Non più forte, rimettila in garage la macchina che forse è meglio. No, ma chi è che sta uscendo importante? Già sto uscendo importante. Chi è che sta uscendo, ma chi è? Avanti Claudio. Lascio, io importante qua, non è vero, quindi va tutto bene, io vi sto sempre ascoltando bene. Nessun ciabotto, lungo e dove sono state fatte, già va bene, beh, questi baracchini anche se sono vecchi già funzionano ancora in banda laterale, va bene. E quindi a tu, la nuova piazza è la nuova? Quando prendo possesso di casa, cioè da domani fino alla fine del mese, ma la prima cosa che farò prima metto l'antenna e poi metto la cucina. Ah, così è, va bene, non c'è problema. Quindi sì, praticamente di fronte a me, dai, zona Falchetto. Zona ex Falchetto, sì. KK, va bene. Ora ci sentiremo ancora meglio, quindi sarai più o meno all'altezza di Roberto Quadrato. I segnali saranno quelli sicuramente. Va bene, d'accordo. Allora Giulio, prende il microfono e fai girare, dai. Con calma e tranquillità rimettiamo tutto in sesto capo. Vediamo un po' se riusciamo a far girare la ruota in maniera rotonda e centrata al 100%. Intanto richiamo Gianni, che poc'anzi non ha risposto. Gianni, ci sei? Gianni è di malumore perché non andava bene in banda laterale. Avanti Alessandro. Ok, dai. Va bene, ok. Aspetta, cosa posso fare qua? Ok, perfetto. Già ne sarà studiando. Sarà studiando un attimino l'apparato. Va benissimo, dai. La parte mia l'ho sentito con un passaggio che va perfettamente bene nella parte mia, dai. Va bene. Evidentemente ancora diciamo non ho preso l'apparato. Comunque c'è un problema che va benissimo. Saluto Claude, ma lo sento un po' così perché lo sento nemmeno QRM. Lo sento nemmeno QRM. E quindi ti posso dire Antonio Claude, attrezzati. No, sei tu che ti devi stancare i denti di cane dalla coda, dall'antenna. E lì entra una salamandra che attacca i denti di cane. Non ho sentito, che mi fa la ponte. Ma devo staccare i denti di cane dall'antenna. I denti di cane dall'antenna è come la barca. Sì, va bene. Ma non mi sento qua. Non ho capito, se ti sento bene hai detto. No, se Claude mi ascolta. Dici sì, purtroppo lo sento. Io rispondo come risponde lui. Purtroppo ho detto che ti sente. Purtroppo, questo purtroppo non mi convince. Aia, questo purtroppo mi fa un attimino preoccupare. Va bene. Allora, sappi bene che avevo procurato quella questione che mi avevi chiesto. E allora mi vedi? Dici che purtroppo perché è talmente forte che mi sta crepando le colonnine, chiaramente. Guarda, ha rimediato subito, perché, sai, lui quando sente queste cose rimedia subito, è stata una grande volta, e ha detto purtroppo, perché purtroppo le stai sfondando la radio, ti ascolta troppo forte, a me deve un peccare molto me. Ciao Paolo. quando chiude la serranda lo deve spostare, che se no rientra dentro la serranda dalla finestra. Oh, e allora cosa? Allora è Danielino. Ma perché Daniele? Non ce l'aveva in alto, sul tetto? Ma tu stai dicendo più sotto del tabacchino che altezza? Allora, più giù del tabacchino di, boh, forse un centinaio di metri a destra scendendo. A destra ho capito, ce n'è un altro, sì, ma quella a sinistra, no, quella a sinistra è la mia. Hai visto quella matova che c'è, messa proprio a livello, diciamo a livello di collo, là, di corrimano del poggiolo, del terrazzo, questo che chiama. Tu stai dicendo scendendo sulla destra, che è quasi di fronte alla gentia funebre. Ho capito, sì, ma non lo so chi sia quel che è. Non proprio dove c'è l'agenzia pure, beh, molto più su, è molto più su, Antonio. È ancora più su di quel negozio di parrucchieri che c'è lì, ancora più su, eh. Ho capito, la mia è sulla sinistra scendendo, la sua è sulla destra, ed è attaccata a un terrazzino, ed è una matova, non so se sia, non è una turbo, è una 4, mi sembra. No, la matova turbo, abbiamo fatto appiattata io, Franco, e Luca, perché praticamente piazzata a 45 gradi, abbiamo tolto due radiali perché se no toccavano la mantovana, perché sopra il tetto non li abbiamo fatto piazzare, e Daniele quello andò. No, negativo, ma ce n'è anche uno più giù, è scendendo. Allora non lo so chi è. Procla, quattro radiali ha, a quattro radiali, l'ho vista anche da poco, io l'ho vista, sono passato lì in Via d'Italia, Oh, Gold, per curiosità, guarda, se tu la puoi vedere bene con l'antenna che è attaccata alla ringhiera, la puoi vedere anche dal rifornitore, nella stessa fila del rifornitore, andando verso l'ospedale, 100 metri dal rifornitore, giri la testa verso sinistra e la vedi attaccata alla ringhiera. Quella è di Daniele. Ok, riprendi, Gold. Si vede, l'ho vista io da poco, guarda, non è più di un mese e mezzo, due mesi fa, perché quando stavo appunto attendendo il mio turno lì agli esami che ho fatto di prevenzione al Palazzo Rosso, mi sono fatto tutto il giro e sono salito in via Rockefeller e poi sono sceso in via d'Italia per ritornare poi in via Montegrappa dove c'è l'ospedale, diciamo, dai. E dunque me ne sono accorto così per puro caso, se no non lo sapevo nemmeno io, cioè si vede, è abbastanza bene anche. Ma io ti dico che non si vede perché, Giulio, allora io venerdì mi sono fermato proprio di fronte perché lì c'è il pediatra di mia figlia e ho parcheggiato proprio lì di fronte e ti dico che non si vede perché in poche parole è messa verso Rockefeller ma non esce neanche dal tetto la cima dell'antenna, quindi tu da via d'Italia non si può mai vedere, se non che stiamo parlando di un'altra antenna, ma questa che ho visto io tu da via d'Italia non la vedi perché è coperta dal palazzo, da verso via Rockefeller, hai capito? Aspettate. Ma dai, Ito. La prima è la mia, che è l'angolo con via Oslo, via distributore può scendere verso l'ospedale, la distributore guarda farai allora c'è presente anche dove vendono roba per animali, c'è presente quel negozio, non mi ricordo come si chiama. Quello lì sì, quella lì è, esatto, se tu guardi in quella via lì, guardando verso destra, quella lì è la è l'antenna di Daniele. Ecco, no, questa rimane un pochino più giù ancora, hai capito? Esatto, sempre sulla destra, ed è attaccata a un terrazzino al secondo piano. Yes. E già lo so, non ho mai capito di chi fosse quell'antenna lì. Sai di chi è forse Opla? Come che si chiama quello? Ricordami il nome che entrava ogni tanto. Antonio. Come si chiama? Antonio. Romeo, ma quello lì. K. Di fronte a mia suocera, tu sai più o meno dove la zona e si vede l'antenna di lì. A proposito, per chi dovrebbe interessare, ma non credo per noi che siamo una famiglia di spiantati, Antonio Romeo, una mia chiamata l'altro giorno, sta vendendo l'857, l'alimentatore grande da mi sembra la 40 ampere, l'antenna, un'antenna multibanda, quella della PKW, che ho anche io, devo montarla quest'estate, che è abbastanza costosa e abbastanza buona perché ha 5 bande verticale, poi non mi ricordo che cosa, sono a tutto 700 euro. 857 solamente non lo vendo. L'857, adesso non mi ricordo quanto l'ultimo, credo che sia sulle 600 euro, 650 usato, quindi da 50 euro in più a 200 euro in più, ma ho preso, c'è un alimentatore da lei, era molto bello, infatti ho detto, se me lo vanno, ma ho detto che stavo vendendo tutto assieme, ma l'857 lì, anche mai usato, ho capito, mai usato, proprio l'ha preso, però... alla fine ho detto che non, insomma, ho cambiato idea, che quindi non andrà più avanti per quanto riguarda il sistema che sappiamo, e quindi sto vendendo tutto. Io ho peccato perché ho preso 7.400, siamo l'857, è un bellissimo quadribanda, molto molto bello, non è grande, non è ingombrante, è un po' più grande del 706 MK2G, bello, quello che praticamente ha Vittorio in macchina, va molto bene, però adesso non mi serve, ho preso 7.400 quindi va bene così, se no l'avrei preso anche. Già lo so, lo volevo prendere io, anche se qualcuno mi ha consigliato di prendere 706 MK2 che è più espandibile, diciamo, e forse infatti io mi indirizzavo su quello. Comunque se lo prendono le 650 per benché sia nuovo è massimo 500, 550 dai, non di più. Ah, allora tu consigli, hai ragione, sto confondendo con l'897, con l'897 che è un po' di stata superiore, no, ma non dicano coglionate, dai, cioè, mamma mia queste cose, io l'ho avuto 706 MK2C, bellissima radio, tutto quello che vuoi, ma l'857 di ultima generazione, non mi dicano fessidia, ma io, dai, cioè, se ognuno si vanta la roba sua, per carità, se parliamo di tecnica, l'857 è superiore alla 706 MK2G, non ha niente a che fare, bellissima radio, perché l'ho avuta, non perché l'ho avuta io, deve essere bella, perché le statistiche sono quelle, ultimo quadribanda, però l'857 è superiore, quindi non è che... sicuramente, capito, poi se qualcuno l'ha preso perché è andato a risparmiare o perché sono due radio simili ma non hanno niente a che fare come ricevitore, come trasmettitore, assolutamente. Avanti, in più, due ripeti. Ok, sì, è come quello che aveva Natalino che se l'ha venduto ad un amico radioamatore, va bene, sì. Comunque per la cronaca, ma ce ne via, l'antenna di Daniele è una turbo, è una mantova turbo, che ne ha tolto i radiali, magari può sembrare una mantova 5 o una mantova 1, ma ne ha tolto i radiali proprio per avere la possibilità di installarla lì, perché lui non ha potuto metterla sul tetto, perché il parente, credo, non gliel'ha permesso. Capito, tutto lì. E poi mi sembra che l'ha pensata anche insieme a Claudio quell'antenna. Confermi qua. L'ho pensata io con Franco, penso che se si dovesse presentare un'occasione del genere, dico no, assolutamente no, non ci vengo, guarda, per mille difficoltà, mille casini, perché poi erano corte, quindi abbiamo dovuto saldare, allungare, non ti dico un casino che ha fatto un branco poi per tirare su un'antenna, perché toccava quindi piano piano se lo si rompeva, mamma mia, va. Per carità, avanti in massimi. Positivo, ma ci siamo messi in casa che c'è anche cosa, c'è già il doppio nuovo Giampaolo, Vai, faccio riprendere già il doppio nuovo, avanti già. Penso perché non l'avevo chiamato un paio di volte e non ha mai risposto, c'è Mauro, Mauro avanti. Cazzo, guarda, sto tentando anche di non ascoltare, di con di configurarmi questo capo di stampante laser al computer che avevo preso l'uovo, perché mi sta facendo diventare scemo, non riesco a installarla. Ok, a proposito, adesso come sono ricordato, per favore riflettimi il nome di quella ditta dove vendono il motorino della cosa. Aspetta che me lo scrivo anche, perché sennò ogni giorno devi dimenticare e non so pure come fare. Scusa un attimino, sto prendendo la penna, mia, eccola qua. Avanti. Vediamo, giro pagina, ecco qua. Dimmi il nome di quella ditta che mi ha detto preda niente, eccetera, eccetera, che vende più di ricambio. Ah, una similia, così le dai anche il nome di tuo cugino. Net ricambi, non è che c'è da sbagliare. Dove c'era l'ex consorzio lì a Pedanieta, di fronte a Cesaraccio per capire. Net ricambi, ho capito, di fronte a Cesaraccio, ok, grazie Massimilia, va bene così. No, sono, perché ma ieri, poi mi ero dimenticato, porca mia, mi sono dimenticato di quello che mi hanno detto, invece adesso me l'ho scritto e dunque non potrei sbagliare. D'accordo, grazie Massimilia, riprende, vai. Ma ecco. Sì, registrato. Un secondo, che voglio far riprendere a Giampaolo, che è un po' il parcheggio. Giampaolo. Ma dove c'è la gente, Giampaolo? Giampaolo, dove c'è la gente? E Gianni non so cosa stava facendo, Massimilia. Io non mi ricordo di aver sentito così, comunque. Mi sembra meglio rilanciare, là. Così non riprendo un altro discorso. Avanti, Roberto. Buonasera. Compagnia mia, Claudio, Giulio, Mauro, c'è anche Luca. Io non mi so qua. Ah, scusa, è Antonio Grande. Sì, ciao, buonasera a tutti. Mi stavo ascoltando 5 minuti, state parlando di apparati, dai. Va bene, ok, vai tu Cla. Con quello sta uscendo Cla, mi sembra mantenere. Ehi, se ti sembra mantenere di conchiglio, allora. Questo è il DAC, quello americano con l'M500, 4 watt. Tu invece mi hai chiarato tutto al fondo scala, gli altri sono tutti 9.10, 9.20 e tu boom, ogni angolo al fondo scala, evidentemente non regge quando entri tu. Ok, avanti, riprendi e fai girare per chi vuoi, c'è Giulio, Mauro, Dali Punti, Antonio Grode, Massimiliano, ci dovrebbe essere anche Gianni Querix e poi Giampaolo, vai tu. Aspetta, saluto a Mauro, che siamo un po' che non ci sentiamo. Avanti Mauro e poi farai girare per il Grotte. Avanti Mauro. Sì, ciao, ben sentito. Niente, mi sto anche divertendo a configurarmi lo cacciavo di stampato e non mi abbuglia. Allora, scusatemi un secondo, là, riprendo io che mi allontano un secondino. Rimango un attimino in QRX, riprendi pure Grotte. Mi assento un attimo, rientro dopo. Grotte. Ce la fai ascoltarvi senza attenuarmi con quello? No, sei perfetto, io ti amo al volo, no, non saturi così, no. Sei fortissimo di segnale, siamo vicini, però la modulazione è perfetta, poco fa stavamo anche usando il mando laterale, questa è una bella radio che non la uso mai. Adesso stasera ho deciso di farla scaldare un pochino, che già le fa bene, che c'è il microfono sempre attaccato. E quindi già va bene, i volti sono 4, già pazienza, già va bene, già ci sentiamo. Giulio, per te il microfono. Ok, ciao Robè, salutoni, ben ascoltato. Tutto bene, sì, dimmi cosa avete fatto oggi come risultato. No, non lo so. sono andato proprio a pochi minuti dalla fine, comunque hanno, abbiamo, dai, che faccio partenza dalla sua, 4-3 nel derby è finita, non so niente di particolare, ho visto soltanto che hanno perso 4-3, io ero con gli altri ragazzi stavo seguendo. Ok, eravate qua, ai punti eravate? Sì, da noi eravamo, il derby proprio con i punti era. Ah, io ho capito. Beh, tu non ci crederai, eppure stamattina io ho sentito il boato, forse c'era il vento che soffiava da questa parte, io stamattina non ci sono andato a vedere la partita, però mi è sparso di sentire il boato, evidentemente quando hanno fatto qualche gol, non so, qualcosa del genere, perché è proprio quello caratteristico, il boato di quando in uno stadio appunto c'è un gol, sai, il pubblico che si mette a esultare, eccetera. Evidentemente che in quel momento stava soffiando un vento dalla mia parte e l'ha trasportata la voce, è possibile, no? Sì, no, no, c'era di gente, quando sono arrivato io infatti non ho trovato il posto, mi sono messo da un'altra parte con la macchina, non dico posto a sedere, parcheggio diciamo, dai. Ok, comunque tutto bene, giù. Sì, tutto bene, tutto in ordine, qualcosa potrebbe andare meglio, vabbè. Cioè, non per fatto di salute, eccetera, diciamo, magari se potesse l'anagrafe tornare indietro, un tantino sarei contento, ma siccome di solito va avanti, meglio così. Va bene, dai, ripeto, fai girare, vai. Ok, chi c'era poi? Massimiliano? No, chi c'era? Giampaolo, come avete detto, Giampaolo o Luca, adesso non mi ricordo. Giampaolo, cioè, si riprende, Giampaolo. Non riprendo, sono spariti così. Luca? Sì, sono qua in ascolto, sono qua. Permetto che faccio due tiri al po' che li sto ascoltando, eh. Ogni tanto riprendo. Perché c'ho il log di stazione lì e quindi perdere tutti i... frequenza. Poi c'è anche Claudio che si è spostato un attimino insieme a Luca. Poi c'è Mauro anche dalla mia zona sempre. E Roberto Quadrato. Avanti Eugenio per chi vuoi. Per chi voglio, per tutti quanti, vi voglio bene tutti quanti, lo sapete io. Buonasera a tutti comunque. Sono tornato da due giorni di relax più totale. Dai. Ok, spero che tu abbia avuto modo di divertirti. Magari parlando di relax intuisco che eri col camper in vacanza praticamente. Va bene, va bene. Ti faccio venire avanti Roberto. Avanti Roberto. Ciao Roger, ma lui in cosa? In giro col camper? Per forza. Io quando esco così esco o in motocicletta o in camper. Andate un attimino. Le prendo, ma sono un attimino. Qui lì alla grande. Sì, ciao, va bene. Cosa Roberto? No, ho risposto ad Antonio che, come si chiama, che dice sta andando nel QRX. Stavo dicendo, ti sento un po' maluccio però, Roger, come mai? Ti male? Non so, io non ho toccato niente. Basso di radio, mi si sente. Giulio, tu cosa mi dici? No, io ti sento bene, anzi sento anche la televisione o la radio, qualcosa che c'è lì nell'ambiente. Io ti sento bene nel radio, non ci sono problemi. Per me, come sempre, insomma, è quello lì, tranquillo e pacifico. C'è anche Mauro, avanti Mauro. Sì, avanti. Poi mi fa una cortesia, quanto sai sul 12 per cortesia, un attimino? Sul 12 però USB. Sì, va bene, facciamo sul 12 USB, d'accordo. Scusatemi un attimino che vado a esaurire la volontà di Gianni o Roberto. A Mauro se ci sei, non lo so, un attimino già, se ci sei rispondi. Non risponde, evidentemente si è allontanato. Luca, riprendi tu e fai girare, dai. Luca, si è spostato con Claudio, penso sull'11 o sul 12, perché mi sento appena Claudio di sblatter. Ah, ok, un attimino che mi sposto anch'io sul 12. Ehi, comunque, stavo guardando la torre, esaurito 3-0 se interessa a qualcuno. Il banco, quando gioca, oggi non ce l'ha fatta col Varese, le prime classifica. Non lo so. Quindi mi senti basso il radio, Robe, così? Vabbè, c'è da dire che c'ho questi sbattere, un pochettino, un po' ti stanno disturbando, dai, forse è l'impressione mia, dai, un po' più forte a memoria ti sentivo di radio, ma il microfono è sempre lo stesso o che cosa? No, sempre tutto uguale, io non cambio niente, così, baracchino uguale, microfono uguale, watt uguali come sempre, niente, tutto uguale. Santiago sei 9 qualcosina, dai. Però mi sembra un'impressione mia, non lo so, forse stai parlando più lontano del solito, non lo so. Ma Rube, no, non so cosa dirti, non lo so. Oh, c'è da dire una cosa, che Claudio me l'ha prendisoso, ho dovuto abbassare anche il mio microfono, il volume dell'apparato, magari se ti alzo e ascoltandoti normalmente sei normale, forse anche quello è il problema, dai, non ti preoccupare, dai, ti ascolto bene, non ti preoccupare. Vediamo un pochettino, facciamo un giro di nuovo sul 10, vediamo chi è rimasto, allora Roberto a questa parte, e Eugenio, vediamo chi c'è, facciamo l'appello. Mi sa che siamo rimasti in due. Allora, Luca, Gianni, Giulio e Claudio sono spostati di qualche canale perché Claudio lo sento di sbatte e sono già 4. Poi c'era Mauro, vediamo se c'è un po', mentre coso, Antonio è in QRX. Mauro, non l'ho mai sentito. Avanti Mauro. Allora Mauro dovresti ascoltare molto forte perché dovrebbe essere zona di punti, di lì siete abbastanza vicini, più o meno come Giulio. Forse non ci si è spostato, non so. Sì, si è spostato. Dimmi un po', chi sono quelli che più ti arrivano più forti a te in assoluto, in ordine sempre della classifica? Un attimino, scusa. Ma vabbè, allora mi stai dicendo, chi mi arriva più forte? Allora, più forte di tutti qua arriva Sandro, che è uguale a cosa? Come si chiama? Ci sei Robe? Sì, K. Ti stavo dicendo che mi arriva Sandro, i più forti sono lo stesso segnale, Sandro è coso, è come si chiama? È come secondo segnale coso Massimiliano, o meno è lo stesso segnale di coso di Massimiliano, e poi tutti gli altri, Santiago Nove. Coso è Giulio, non doveva andare a campo moletta Giulio. Se Giulio arriva a Santiago 5 così, ma 5 si può Antonio poi 5, invece gli altri mi arrivano tutti Santiago, quelli che ti ho incanto, sui 10, capito? 9-10 così. Avanti breve. Allora, buonasera a tutti, dai, già non più. Sì, ciao già, buonasera. Io quanto arrivo di segnale dalle tue coordinate oggi? Schiaccia. Ora? Ora. 9 pieno. Pensavo che Giulio, cioè, addirittura Alessandro arriva più forte di Gianluca, perché Gianluca di Porto Torre sono dei più forti. Sì. E lui da me ha lo stesso segnale che a Massimo, uguale. È più vicino, Sandro. Certo, già. Che Sandro risulta più vicino, cosa è più giù, rimane più giù, magari c'è la pinna di dai. E magari più a però no, pensavo, perché qua Gianluca, a te chi ti arriva più forte, Gianluca o Sandro, già? Ah, non sai che non ci ho mai fatto caso, comunque Sandro arriva fortissimo e anche Gianluca, tutti e due mi arrivano molto bene, se non ha sotto casa. Non ci ho mai fatto caso, vabbè. Sono rientrato, se no vogliamo lasciare, dai, mi hanno chiamato per cenare. Ok, ciao Roberto, salutoni, ben ascoltato, alle prossime, ciao Gianni, ciao Eugenio, Luca che è in ascolto, Claudio probabilmente ancora in ascolto, non lo so se è rientrato su questo canale, e poi chi c'era? Massimiliano se è stato in ascolto, insomma salutoni circolari per tutti, io ascolto il vostro finalino e poi passo in quel ritirare. Sì, va bene così. Comunque già, tranquillo, va benissimo la banda laterale, tu adesso, hai trovato il modo come sistemare il tutto. D'accordo, riprendi pure e poi ascolto il finale e poi vi chiudo, eh. Ciao. Ciao, ciao, giù, grazie. Vabbè. Non è che l'ho trovato io, mi hanno aiutato, dico la verità, io sono umile e dico le cose come stanno. Mi hanno dato una mano, mi hanno detto un po' così e è andato bene, va, non c'è problema. E non sono riusciti da premere, da zerare i 10 anni, non c'è problema. Avanti, Eugenio. Ehi, ciao Giulio, buona masticata. Oggi tanti saluti da Stefano e Maria, no, è Stefano, va? E Rita. Ma ti ringrazio, dove eravate il giro insieme? Ehi, ci siamo trovati nella stessa compagnia, dai. Li ho conosciuti. Persone in gamba. Sì, siamo molto in gamba, siamo molto alla mano, persone veramente in gamba. Stefano è un pezzo di pane, tranquillo. Sì, sono tutti e due. Aspetta, saluto al giro. Aspettate, saluto a Giulio, ciao Giù, ben sentito, buona carica, buon tutto, là. Ci risentiremo in altre occasioni. Chi c'è da salutare avanti? Non c'è più nessuno. Si è spostato Claudio con Luca, stava facendo parlando di qualcosa, non lo so, adesso non so se sono rientrati. Avanti, grazie, ci sei. No, stanno ancora facendo prove. Appagata. Forse hanno trovato l'ex poliziotto argentino, quello che era scomparso, forse. Arrivo. Ritornato. Sono anche bravissimo. Arrivo. Gli hanno trovato uno d'acqua e si presume che fosse lui. Ferella. Ha vestito come? Sì. Ha visto. quindi vai anche in Australia. Io ho un amico che va in Australia per fare un visto, lo so. Magari. No, io gli farò placamona, portopollo, però fuori non sono mai stato. Anche perché il mare più bello ce l'abbiamo in Sardegna e di Adem in Australia. Ma lui va perché ci sono le onde alte, lì, capito? È andato due volte già, è un pazzo, sta non bene di nabba, è appassionato, è anche insegnante di windsurf, ecco, è molto bravo, eh. È bravo come istruttore, come tutti. Ma c'è proprio la passione, che per spenderci tutti qui sull'onda se lo può permettere. E chi è questo qua, i Sassari? Teorico verticale, non te lo dico qua la radio. Ah, vabbè. Sì, perché io riconosco i Sassari. Signore e signori, io chiudo. E devo uscire, ci sentiamo alle prossime. Ciao, Mauri. Ci sentiamo, dai. Buona serata, buona continuazione. Ah, ciao Maurizio, non sapevo che ci fossi, mi saluto per la prima volta, eh. Buonasera anche a te. Mi ci ha ascoltato un attimo a 14 con Claudio, infatti adesso ripasso lì, saluto anche a loro e ci sentiamo alle prossime. Ciao Mauro, ben sentito, fatti sentire più spesso, ci sentiamo, buon tutto. Però beh. Me. Ah, quindi eri i capelli della Miller stamattina. Ehi, a Corriere, vabbè, Francesco c'è andato a giocare. Ah, sì, sì che è andato mio figlio stamattina, stava giocando, non doveva giocare, ma detto. Sì, vabbè, io sono andato con l'altra squadra, lui ha giocato con gli allievi, io sono andato a seguire i giovanissimi. Vabbè, dai, sono contento che rientri, perché c'era un po' che non stava venendo. Quest'anno sta venendo tutte le domeniche, dopo sta venendo anche gli allenamenti. Ma è stato qualche, cioè, partito in ritardo, non è venuto all'inizio, dai. No, perché prima non le voleva fare e dopo si è deciso, vai, se vuoi andare a giocare torna, vai, non c'è problema. Caparma consentirà un passo in carriera, ossia prenda piega brutta, vabbè, già ne parliamo con calma. Ok, di nuovo buon tutto, già ci risentiamo Mauro, avanti Gianni. Ciao, ci sentiamo. Sono rimasto qua, vabbè, che sono un po' fuori fase. Io, tu e Eugenio, perché le Luca si sono spostate, non so, stavo leggendo, parece si sono affarrati a piazzare segni, tipo della Torres con quelli del Varese. Quando? Cosa, uno l'hanno portato all'ospedale pure. Siccome c'era Torres, il progetto Santeria, pensavo che era a fare nei gonghi di Gagliari, invece si sono bisticciati con quelli del coso, della, come si chiama? Del Varese, che dovevano venire a seguire la Dinamo. Oggi c'è lo scontro tra la prima e la seconda, la Varese è prima, la Dinamo è seconda. Dice prima di la partita si sono pestati. Ma che gusto, che gusto. Ah, non a livello di pallone, ma proprio di pallacanestro. Ma poi normalmente i tifosi della pallacanestro sono gente tranquilla, si mischiano anche le tifoserie avversarie, non è come il calcio. Negli altri sport, ieri per dire c'era il rugby, c'erano gli irlandesi che sono randaggi, nel senso che a caso su giochi in Italia e Irlanda è peggio di parlare Italia-Francia, antibistici, invece mischiati con gli italiani, tutto bene. Se cambi sport si negavano i luci, purtroppo è così. E questi irlandesi sono venuti a seguire la squadra e si sono incrociati con quelli della Torres e si sono afferrati, hanno buscato. Sì. Inutile, se dovremmo già far sempre conoscere, poi magari vai lì di qualcuno tipo la volta che è andato a vedersi la partita della Dinamo e ne hanno pensato 3 o 4 gente, bambini, genitori con bambini appresso e buscano per qualche imbecillotto di Sassari che tanto in trasferta non ci andrà mai. Ma io non ce la vedo questa, che si debba mettere la violenza per lo sport. Lo sport è una cosa piacevole, perché si deve mettere la violenza in mezzo a un crisi. Avanti, Luigi. Cosa, scusa, dimmi, già, che stavo parlando, dimmi. No, dice che si sono prestati i varesini con quelli della Torres. Ha detto, cosa accetta lo sport con la violenza? Ma lo sport deve essere una cosa piacevole, non deve essere una cosa dove c'è violenza. Si è diventato troppo sporco lo sport in generale, è per quello che la gente... Non so neanche io già cosa dirti, ma io ho lasciato perdere il calcio perché qua ne ho sentito troppo, il calcio è siamo del basket, si mischiano, insomma, no, no. Ma magari rissa, è partito un imbecille, magari si sono azzeffati 3-4 ragazzini. Vabbè, certo, la sempre la figura ce la fa. Ce la fanno tutti, capito? La città ce la fa. Perché se non lì, quelli lì sono tutti delinquenti, capito? È un brutto biglietto da visita per chi viene qua come ospite. Aspetta un attimo, sto guardando, io non sono sicuro che sia della Dinamo, Aspetta un attimo, scusa se le notizie sto guardando. Vabbè. Ecco perché ti è entrato il virus. Ma non c'hai, non hai coso. come si dice, ma i... ma c'è una tua fame, te le vedi? Codice? Scusa, apri. Protezione? Veloce? Aggiornamento? Cronologia? Lasciata. Vedi? E preso un virus scaricando Java. Java. E tu ha toccato l'uno, ecco, io da quando ho tratto quel virus dove la polizia è stata, non ho toccato più niente, non che cosa l'ho fatto, l'ho portato a Sorso. Siccome quello di Sorso è uguale a questo mio, tranne il programma, ho preso un dischetto, ho ripristinato e sono riuscito a togliere quel cazzo di virus. L'ho portato a casa e fa questo problema. Aspetta, pacchetto richiesta, aspetta, vediamo. Supporto. Cazzo. E poi ti chiede la licenza, qua. Ah, Office, cazzo. Allora, aspetta. SP2, se la fai il pacchetto cumulativo però no. Lascia vedere. Aio, questa cazzo si va andando sopra. Allora. Vediamo un po', aspetta. Cazzo mi do se fuori la matta. Ma non c'è più un... cioè non c'è niente fra, eh. Oh, cazzo. Termina adesso. Vai, girami i coglioni. Allora, se la sessione si fa un pacchetto di... una sessione file. Allora, aspetta. Allora praticamente qua dice di scaricare il pacchetto, però non lo fa disinstallare. Pucchi? Che non c'è neanche nei documenti, vedi, non c'è neanche nel... aspetta, vediamo. Aspetta, perché lui ha avuto un altro problema. Fabio, faccia azzurra. Piana. Allora aspetta, perché alla fine sono due volte diventato con questo virus, uno nel fisso e uno nel portatile, però ho dovuto formattare. Io non c'è comunque di cazzo, la sorso mi lava tutto ok, l'ho provato anche con la chiavetta che c'è lì, di internet, e funziona un po' bene, l'ho portato a casa, devo essere più cancellato il dottore Zawitiki. Ascolta, ti ricordi il virus che avevi preso da pulizia di strato, una cosa del genere, no? E tu cosa avevi fatto? Non ti facevo andare avanti, vero? Hai dovuto formare per forza. Questo è un fisso di Claudio, eh. Praticamente, allora, mi guarda, non li faccio un altro, mi guarda. Ma la moto è acceso, è appena acceso, Clark. Ma tu fai la cena che ci provo, qua non cazziamo anche lui se ti chiude. A parte non è neanche il virus. Ma porca puttana. Aspetta, sto macinando. No, facciamo una cosa. Dai, vediamo questo qua, facciamo di fare il pulizia di scocca, vediamo. Porcarie, cazzo, l'ho già fatto stasera, la domanda ti voglio fare io, ma ci puoi eliminare quel virus e installare un altro nuovo? O mettere un altro nuovo per se ce lo fai installare? Claudio, guarda me, guarda, sono ore, guarda. Farò di controllo, guarda. Installazione di applicazioni. Non ho fatto disinstallare, Cla. Vediamo un po', perché vedi il Partac, ma non fa, Tolbar, ma quanto ne vale? Da lì ha preso il virus, avete messo Java, da lì avete preso il virus. Vediamo un po'. Ecco qua, guarda. Disinstallare, guarda, scarica qualche nuovo pacchetto, io ci vado, vediamo un po' cosa fa, cioè ti fa cadere dopo, dalla pagina tua, cosa è l'assistenza, vediamo un po' cosa dice, aspetta, perché c'è un numero per le chiavi, c'è il sistema operativo originale, capito qua? Ti ho capito. Io di Java non l'ho installato. L'unica cosa che ho fatto, ho scelto il dischetto di Windows per il ripristino, mi ha tolto quella pagina che era bloccata e mi ha fatto lavorare in modalità provvisoria. In modalità provvisoria io che cosa ho fatto? Sono uscito dalla modalità provvisoria, perché ho visto che funzionava, sono andato su internet normale e va bene tutto. Però non mi fa installare il coso, l'antivirus, e poi la pagina iniziale di disco mi va a far cadere. Sì, allora qua dice. Allora, ricerca soluzione prodotta, allora qua dice chiedi a community oppure contatta l'assistenza. E non so proprio che era da Stefano, claro, in più nemmeno vedi. Cioè, vediamo un po'. Andiamo, cosa cazzo dice? Aspetta. Facciamo la fame. No, io sono... Sicurezza. Ah, non metto il software. Ma è un bolletto. No, però devo aspettare allora. Aspetta. No, c'è. Allora, c'è questa pagina che gli sta a indicare che deve contattare l'assistenza. Per forza. C'è un virus bastardo dentro. Ma perché non mi... Quello Windows e Cynthia. Ma lo puoi disinstallare l'altro questo è. Ma non deve disinstallare. Ma non lo fa tanto, se lo aggiorno, lo fa né aggiornare né disinstallare, cazzo. Ma devi mettere un altro, cazzo, cioè. No, ma quello è su Windows 3, cazzo, boh. Ciclo non fa. Eh? Ciclo la pagina. Cosa facciamo? Facciamo tizzato, cosa facciamo, dimmi? Aspetta. Ma se non è fatto, non concludi un cazzo, se non concludi niente secondo me. Ma non mi fai che non si fa un cazzo, ragazzi, programmi che servono. Allora, comunque no, io non so, tecnici, no? Tu di lui capisci allora? Certo, però io sono l'unico programma adesso, l'unico programma che va bene è questo. Meglio di Cicliane, questo qua che c'ho io, meglio di questo Cicliane, come ti cazzo si chiama? Il vabbè, questo qua è, aspetta, se non ho disinstallato il programma, aspetta. Ma cazzo è? Aspetta. Forse l'ho disinstallato. Io ti manderei neanche su internet, ti chiamo una pagina di errore, con chi ti ha una pagina di errore. Ah, e allora? Ma chi? Non so, se vuoi io... Se da, claro, tu sei disposto a farlo formattare? Se sappiamo almeno il coso, come si chiama? Che è quello dove c'è il callbook, il login di stazione, io quello lo devo ottenere, perché il capo come faccio, mi viene un controllo, gatto Marrese. Ma faccia un po' per piacere, c'è un bel forte qua, tanto lo dati lui, se dopo vuoi, chiama la radio. Aspetta che ho staccato il processore, mi senti? Ah, tu arrivi qua, io lo voglio vedere a te al mio posto, eh? Tu vieni qua, io parlo a casa tua, tu mi dici abbassa. Vabbè, ho staccato il processore. Ti ho detto che devo recuperare AM Radio International, che è praticamente il log di stazione, capito? Dove c'è il callbook, dove ci sono tutti i dati dei collegamenti fatti e tutto, per quello lo devo avere. Almeno quello lo devo salvare, poi di Facebook e tutta la roba delle cartelle, non me ne ha fatto un cazzo a me, non mi interessa. No, leggi qua, curriculum, leggi, nome e cognome, non dico niente, lo vedi qua, questo, lo vado a salvare, questo, qua c'è una cartella di documenti, poi lì su, non so, questa roba qua, è da salvare o no? Questo Sardegna non ha compreso da Dinecito, su mi installe, Excel non ha compreso da Dinecito, Digital Master non ho capito. Non capisco tutta questa roba, Skype, tecnologia, cioè, no, è tutta roba di noi, giù molto meglio. No, non mi voglio dare nulla, ti sto dicendo, non mi faccio dare niente. Perché se io gli mando a guidare, ho fatto l'antivirus, se io ci dico sopra, non mi fa andare avanti, mi dà errore. Quindi carica, quindi mi ha fatto impossibile completare l'installazione di sicurezza esempia. Io sto per farlo attivare. Aspetta. Allora, team 553. Dai, sono il team 553. 395. 304. 6231. Ah, sto uscendo. 6231, sì. Ma sono fuori. Ok. E fai male il sangue una cosa, boh. Sono messa una cosa. Ah, vabbè, c'è Stefano dentro.